tanto piacer mi fa. Si l'ultimo mio amore fa i capricci se ne va. Oh, ah, ah, è una felicità. So che un amore nuovo un dì più bello nascerà. Io non domando perché, non dico ti scriverò, e sempre a te penserò, ma dico ciao e me ne vo. Molto piacer mi fa, perché per ogni amor che muore un nuovo nascerà. Piacer mi fa.